Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Tangenti per appalti all'ANAS, un'ondata di arresti su ordine della Procura di Roma per corruzione, voto di scambio e manette anche l'ex sottosegretario alle infrastrutture Meduri. All'ottavo mese di gravidanza va in clinica per dolori all'addome e viene dimessa, muore la mattina dopo e con lei il bambino. Assenteismo nel comune di Sanremo, 75 arresti, 195 indagati, le accuse, truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Oggi la legge di stabilità dovrebbe arrivare in Parlamento. Padoan dice il dibattito sul contante lascia il tempo che trova, taglio delle tasse permanente. Le ombre di un complotto sulle notizie in merito alla malattia del Papa, il sinodo sulla famiglia verso la conclusione. Il medico giapponese rimuove dal blog due post sulle sue visite in Vaticano. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura, dunque, torniamo a parlare di corruzione per la nuova indagine scattata questa mattina a Roma, coinvolto anche l'ex sottosegretario alle infrastrutture ed ex presidente della regione Calabria, Luigi Meduri, il servizio. Cinque dirigenti e funzionari dell'ANAS, un ex sottosegretario, un avvocato, tre imprenditori, sono 10 gli arresti scattati all'alba di questa mattina e oltre 100 perquisizioni ancora in corso in 11 regioni nell'inchiesta per corruzione che ha coinvolto la società che gestisce le autostrade, sequestrati 200.000 euro. Le ipotesi di reato contestate dalla Procura di Roma sono associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e voto di scambio. L'ex sottosegretario finito in custodia cautelare Luigi Meduri alle infrastrutture nel secondo governo Prodi e attualmente nel PD ma non più in Parlamento dal 2006, viene definito dagli inquirenti un oscuro faccendiere e interfaccia politica della principale indagata, una donna, la Dama Nera, che gestiva il flusso di mazzette per l'assegnazione di appalti pubblici, così il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone. L'indagine si è rivelata veramente per alcuni aspetti disarmante, sia per la quotidianità dei fatti corruttivi, sia anche per la modalità con le quali la principale indagata ha un approccio assolutamente aggressivo, utilizza un linguaggio che fa capire che non è appunto un fatto episodio, che è un sistema assolutamente strutturato. Antonella Crogliano, alias la Dama Nera, riferisce ancora a Pignatone, andava in ufficio a lavorare, ma il suo lavoro è gestire il flusso continuo della corruzione, la sua borsa è sempre aperta, arriva qualcuno e ci mette una busta. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E torneremo tra poco a parlare di questa vicenda, ci collegheremo con Antonio Di Pietro, presidente dell'Italia dei Valori, e che era ministro delle infrastrutture e dei trasporti con sottosegretario Meduri, per provare a capire anche da lui che tipo di figura fosse. Un altro caso di corruzione intanto coinvolge la direttrice di un istituto minorile di Milano, il Beccaria. È stata arrestata Alfonsa Miciche insieme ad altre 4 persone, tra cui la figlia e il fidanzato. Sono accusati di concussione e corruzione in concorso. La direttrice avrebbe favorito associazioni a lei gradite, alle quali affidare le attività alle quali partecipavano i ragazzi detenuti nella comunità penale. Restiamo sulla cronaca con la vicenda del pensionato che ha sparato ad un ladro uccidendolo a Vaprio d'Adda tra Bergamo e Milano. Proseguono le indagini mentre l'uomo parla coi giornalisti. Tengo la pistola sul comodino dal 2008, ha detto tra l'altro a Sky TG24 e poi così si è sfogato ai microfoni. Primo pensiero va ai genitori perché ha sempre 22 anni. Secondo va all'arma dei carabinieri, perché solo veramente vi chiederei di piantarla un po', perché vogliamo tornare alla normalità, perché questa qui la vera colpa non ce l'ha nessuno, c'erano solo quel branco di idioti che ci sono giù a Roma, perché ci sono politici bravi ma alcuni sono idioti, perché basterebbe fare legittima difesa a una legge, dare 25 anni a un reato del genere, uno non viene più a rubare in casa. E sempre per la cronaca, una storia che arriva da Milano, una donna morta dopo una visita in clinica, era incinta. Non è ancora chiaro se si tratti o no di malasanità. Una donna all'ottavo mese di gravidanza è morta nella sua casa a Milano e con lei il suo bambino. È la sera del 16 ottobre, la donna avverte dei dolori addominali e va a fare dei controlli all'ospedale San Pio X vicino a Viale Zara, dove è seguita e dove ha già partorito il suo primo figlio, oggi di 4 anni. Dopo un'ora viene dimessa, torna a casa, ma le sue condizioni nella notte peggiorano e alle 5 del mattino il marito chiama l'ambulanza. A nulla servono gli interventi di rianimazione dei soccorritori né il cesareo d'emergenza all'ospedale Niguarda per cercare di salvare almeno il bambino. La Procura di Milano ha aperto un'indagine per esaminare le analisi e gli esiti di quella visita che solo 9 ore prima i medici della clinica San Pio X hanno fatto alla donna e che nessuno evidentemente ha saputo interpretare. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono passati 6 giorni dall'approvazione della legge di stabilità e il testo definitivo non è ancora disponibile, ma si continua a discutere dei singoli capitoli, o quantomeno di quelli che conosciamo. Su alcuni capitoli della manovra il Premier e il Ministro dell'Economia provano a chiudere. Sul contante, per esempio, il limite a 3.000 euro non si tocca, ha detto ieri Renzi, piuttosto mettiamo la fiducia. Un dibattito che lascia il tempo che trova, ha chiosato stamattina Padoan. Il titolare di Via 20 Settembre ha risposto anche a chi accusa il governo di aver scritto una manovra non progressiva. La manovra è fortemente progressiva, ha detto il Ministro. Il governo è impegnato a tagliare le tasse in modo permanente. Gli enti locali non aumenteranno le imposte. Anche sul canone in bolletta non parla. Ci saranno ripensamenti, ma sarà tenuto a pagarlo solo chi possiede un televisore, esclusi tablet e smartphone. Lo ha confermato il sottosegretario Antonello Giacomelli, ospite a 24 Mattino. È il possesso di un televisore che è il requisito. Nella norma che abbiamo introdotto abbiamo solo aggiunto una presunzione del possesso del televisore, che è il contratto di fornitura elettrica per l'abitazione dove si è residente. Dichiarare falsamente che non si possiede un televisore per non pagare il canone sarà reato, ma già il decreto del 2000, ha sottolineato Giacomelli, dice che la certificazione di un dato falso è reato. Al capitolo gioco, poi, il governo riduce da 22.000 a 15.000 i punti scommesse da mettere a gara nel 2016. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di legge di stabilità si è parlato questa mattina in un convegno organizzato da Confcommercio per fare anche il punto sui consumi. Dal fronte dei consumi arrivano timidi segnali di ripresa. Quest'anno, per la prima volta dall'inizio della crisi, la quota di famiglie che ha aumentato la propria capacità di spesa risulta superiore a quella delle famiglie che l'hanno invece ridotta. Il dato emerge da uno studio realizzato da Confcommercio e Censis. Secondo il rapporto, il clima di fiducia migliora, ma la ripresa resta ancora fragile e per una famiglia su 5 il reddito non basta a coprire le spese. Nell'ultimo anno il potere di acquisto dei nuclei familiari è cresciuto di 134 euro, ancora molto al di sotto rispetto a quanto perso nell'ultimo decennio, rileva Confcommercio, che nonostante un giudizio positivo sulla legge di stabilità mette in guardia dal rischio che ora i comuni decidano di aumentare l'IMU su seconde case e i mobili strumentali, cioè uffici, negozi e alberghi, un'operazione che comporterebbe un aumento delle imposte da 1,5 miliardi, avverte il presidente Sangalli. Se si dovesse verificare, certamente sì, e ridurrebbe e di molto l'effetto espansivo della legge di stabilità. Secondo Sangalli, nel 2016 il PIL potrebbe avvicinarsi al 2%, a condizione però che il governo riduca le tasse su famiglie e imprese e la legge di stabilità esplichi appieno i suoi effetti espansivi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo all'inchiesta della quale vi accennavamo nei titoli, quella sull'assenteismo nel comune di Sanremo. Sono coinvolte quasi 200 persone. Il blitz è scattato stamane, ma l'indagine era iniziata quasi 2 anni fa. Al centro dell'attenzione dei finanzieri, coordinati dalla Procura d'Imperia, un vasto giro di assenteismo consolidato nel tempo da parte di un gruppo di dipendenti del comune della Città dei Fiori. Cattive abitudini diventate quindi consuetudini. Risultavano regolarmente al lavoro, in realtà facevano tutt'altro. 35 le ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari eseguite in queste ore. Altre 8 persone risultano indagate a piede libero. In corso numerose perquisizioni negli uffici comunali e in abitazioni private. Gli accertamenti dei finanzieri hanno riguardato oltre 200 persone, ma la lista degli indagati è quindi destinata ad allungarsi. Le accuse contestate sono falso e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'inchiesta era partita dopo una segnalazione dell'ex sindaco di Sanremo, Maurizio Zoccarato. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Nei giorni scorsi ve l'avevamo detto, abbiamo intenzione di non abbandonare il Sannio, dove c'è stato un vero e proprio disastro a causa delle piogge e delle alluvioni. Si è raccontata spesso Benevento come una città fantasma. L'alluvione ha colpito appunto Benevento, la sua provincia, un pezzo del Molise. Tra poco ci collegheremo con la nostra inviata Raffaella Calandra, ma prima due voci che ha raccolto in uno dei paesi più colpiti, che è Paupisi. Tutto ciò che è rimasto in bilico, tipo grossi massi, pietre, frane non ancora smottate, probabilmente avranno conseguenze comunque disastrose. E siete spaventati? Un po' sì, le famiglie molto. Come si fa a dormire? Cercando aiuto agli amici, al comune. Tra poco dunque di nuovo in collegamento con la nostra inviata Raffaella Calandra. All'indomani delle indiscrezioni sulla malattia del Papa, pubblicata dal quotidiano nazionale, bollate come false dalla Santa Sede, si continua a parlare evidentemente della vicenda. Takanori Fukushima, il neurochirurgo giapponese che secondo il quotidiano nazionale avrebbe visitato Papa Francesco a causa di un tumore benigno al cervello, ha rimosso dal suo blog i due post sulle missioni in Vaticano di ottobre 2014 e gennaio 2015. Nel primo c'erano anche le due foto, in realtà ritoccate, dell'incontro col Papa, mentre Francesco programma i prossimi impegni, 10 novembre il viaggio a Firenze. Alcuni stretti collaboratori insistono, queste notizie vogliono condizionare l'esito del sinodo sulla famiglia, che terminerà sabato. I 270 padri sinodali, divisi in circoli linguistici, hanno approvato le loro relazioni. Sabato ci sarà il voto e poi tutto arriverà nelle mani del Papa, che dovrà mettere a punto un documento di sintesi del sinodo sulla famiglia. La famiglia, appunto, di fronte alle sfide di oggi è il tema centrale, ma due le questioni più controverse. La prima, l'eucaristia per i divorziati risposati. C'è un gruppo che non vorrebbe modifiche all'attuale situazione, cioè l'esclusione dal sacramento, e un altro che probabilmente prevarrà, che invece sostiene la via pastorale. Nessun cambiamento alla dottrina comunque, ma la valutazione delle singole situazioni, caso per caso. L'altra questione è quella dell'approccio nei confronti degli omosessuali. Non dovrebbero esserci grosse sorprese rispetto alle conclusioni del sinodo straordinario. Accoglienza, integrazione dei singoli, ma non riconoscimento ufficiale per le unioni gay. Al sinodo c'è molto di più, però. C'è la visione di una chiesa non ripiegata su se stessa, che non difenda una fede da museo, che alcuni osteggiano. In questo braccio di ferro si inseriscono i leaks puntualmente arrivati fin dal primo giorno dei lavori, dalle rivelazioni di Monsignor Ciaramsa alla salute del Papa. Tentativi, secondo molti, di condizionare la svolta. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vedremo quali saranno poi gli esiti del sinodo, e anche su questi evidentemente vi aggiorneremo. Un paio di notizie di cronaca appena battuta dalle agenzie prima di cambiare argomento e passare all'arrivo di Netflix in Italia. È oggi la giornata. La prima riguarda la vicenda dell'inchiesta sul giro di prostituzione minorile a Roma nel quartiere Parioli, che ben ricorderete. Notizia di pochi istanti fa è che ha patteggiato una pena di un anno di reclusione Mauro Floriani, marito della parlamentare Alessandra Mussolini, che era coinvolto nell'inchiesta. Lo ha deciso il gruppo di Roma, che ha anche disposto una multa di 1.800 euro. L'altra notizia riguarda un fatto di cronaca di questa mattina avvenuto a Torino, dove un uomo è stato colpito da una fucilata alla schiena. Si tratta di Vito Amoruso, un rappresentante. Era stato ferito questa mattina. Ebbene, la notizia di pochi istanti fa è che è morto. Vedremo come procederanno le indagini da questo lato. Andiamo dunque all'arrivo di Netflix in Italia. L'obiettivo di medio periodo, dichiara Reed Hastings, fondatore di Netflix, è conquistare anche in Italia un terzo delle famiglie, 7-8 milioni, risultato che negli Stati Uniti è arrivato in 7 anni. Nato nel 1997 come servizio di noleggio DVD per corrispondenza, oggi Netflix è il principale distributore di film e serie TV su internet in streaming a pagamento e ha quasi 70 milioni di abbonati nel mondo. Una evoluzione che rappresenta bene come la TV si sta trasformando. Migliaia di titoli da vedere quando e dove si vuole, su TV, computer, smartphone, basta avere un collegamento ad internet. L'offerta si basa su un ricco catalogo di vecchi film e molte novità autoprodotte, come ad esempio Marco Polo, Orange is the New Black, Sense8 e l'ultimo Bits of No Nation. Per le ultime uscite a noleggio bisogna invece rivolgersi ad altro tipo di servizi come Chili, Apple o Google. Netflix arriva in Italia in un mercato dove esistono già servizi simili come Infinity di Mediaset, Sky Online e Team Vision, con prezzi mensili in un intervallo compreso fra gli 8 e i 20 euro. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. Abbiamo parlato di televisione, cinema, o di nuova televisione per così dire, ora parliamo di libri perché Milano si prepara ad una piccola invasione di scrittori e lettori. Da oggi a domenica, Book City. Sarà Isabella Allende a inaugurare la quarta edizione di Book City, proprio nel momento in cui viene pubblicato in Italia il suo ultimo romanzo, con uno stile ormai diverso da quello che l'aveva lanciata con La Casa degli Spiriti. Dall'autrice sudamericana più famosa al mondo, si passerà in 4 giorni per premi Nobel come Dario Fo ed Erta Müller, per poi chiudere con Claudio Magris, anche lui fresco di stampa. Fra i nomi più popolari che incontreranno i lettori, l'americano re del thriller Jeffrey Deaver, Joan Harris, diventata famosa con Chocolat, gli italiani Francesco Piccolo e Mauro Corona. Incontri quasi tutti gratuiti, che si terranno in centro ma anche nelle periferie. L'idea è quella di una manifestazione virale, come spiega Oliviero Pontiedipino, responsabile del programma Book City. La cosa straordinaria è che si riempiono anche gli incontri tra virgolette più di nicchia. Quelli che parlano di quel certo poeta, quelli che parlano di quel certo filosofo, di quel problema filosofico, quelli che parlano della cucina regionale del Molise, quelli che parlano della traduzione. Quindi la cosa che a me sorprende, mi commuove, devo dire, è vedere che in questo grande palinsesto poi le persone riescono a trovare qualcosa che gli interessa e vanno a vederlo. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport. Abbiamo parlato in apertura di corruzione. Ebbene, c'è un caso che potrebbe riguardare le partite, il cosiddetto classico, le partite tra Real Madrid e Barcellona. Lanzamiento diretto, azione ensayada. Veremos, da la orden del Gabo Ferreiro, le pega Messi. Immaginate un fin troppo solerte guardalini e annullare un gol del genere a Messi proprio nel classico, cioè la partitissima tra Real Madrid e Barcellona. Rischio più che concreto in vista del prossimo duello tra Blancos e Blaugrana in calendario il 21 novembre al Bernabeu, almeno a sentire il giornale catalano Le Sportiu, per il quale un guardalini della Liga Spagnola, membro di una delle terne papabili per arbitrare la sfida e ora protetto da anonimato, avrebbe denunciato pressioni indebite per favorire i madridisti nel big match contro i catalani. Denuncia ritenuta almeno verosimile, visto che il fascicolo sarebbe ora nelle mani della Guardia Civil, che indaga sulla vicenda. Autore delle pressioni sarebbe José Ángel Jiménez de Morales, ex direttore di gara e ora componente del comitato tecnico arbitrale, che avrebbe telefonato al guardalini lo scorso settembre per condizionarlo a favore dei Blancos. Da qui la denuncia, che già avvelena il clima in vista del classico del 21 novembre. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo il doppio pareggio di Roma e Juventus in Champions, stasera in capo le italiane impegnate in Europa League, alle 19 la Lazio con i norvegesi del Rosenborg, la Fiorentina i polacchi del Lech Poznan, alle 21 trasferta in Danimarca per il Napoli contro il Midtjylland. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Subito dopo parleremo con Antonio Di Pietro, presidente dell'Italia dei Valori, ma che era ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con sottosegretario Luigi Meduri, che è stato arrestato oggi per corruzione. E poi andremo nel sannio della nostra inviata Raffaella Calandra per capire com'è la situazione dopo l'alluvione. A tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le nostre notizie, le notizie in primo piano, le tangenti per gli appalti all'ANAS, un'ondata di arresti su ordine della Procura di Roma, per corruzione in manette anche l'ex sottosegretario alle infrastrutture Meduri. All'ottavo mese di gravidanza va in clinica per dolori all'addome e viene dimessa, muore la mattina dopo e con lei il bambino, è successo a Milano. Una fucilata alla schiena sotto casa, ucciso un uomo di 47 anni a Torino, era un rappresentante di prodotti alimentari. Nuova mattinata di caos a Roma, con metro B e B1 ferme tra le 8 e le 9 e mezza, forse a causa di un'infiltrazione d'acqua. Oggi la legge di stabilità dovrebbe finalmente arrivare in Parlamento. Padoan dice: il dibattito sul contante lascia il tempo che trova, il taglio delle tasse sarà permanente. Antonio Di Pietro, presidente dell'Italia dei Valori, chiamiamo in qualità soprattutto di ministro delle infrastrutture quando Luigi Meduri, arrestato oggi, coinvolto in questa inchiesta sull'ANAS, era sottosegretario. Di Pietro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Un paio di precisazioni. Io sì. con l'Italia Valori non ci azzecco più. Ah, non ci azzecca più. Non sono più presidente. Ah, già, è vero, è vero. Sì. L'Italia Valori fa la sua strada. Buon viaggio. Io personalmente sto raccogliendo colleghi che si scusano. Sto raccogliendo l'ultimo. Tra l'altro, come va il tempo da voi? Perché non è distantissimo dal Sannio, da dove ci sono state le alluvioni. Come si dice dalle nostre parti, piove, governo ladro. Senta una cosa, oggi viene definito dai magistrati e da Pignatone, viene definito Meduri come un oscuro faccendiere. Lei che memoria ha di questa persona? Dunque, da quello che ho capito, si tratta di fatti che riguardano questi ultimi anni. Il Meduro che ho conosciuto io era e auguro sia ancora una persona che il classico politico locale che si occupava di tutti, ma comportandosi per bene. Ora, quella che ha descritto Pignatone in questo oggi, nella sua conferenza stampa, che ho sentito anche se in parte, quel che hanno mandato i media, mi pare di capire che non ci sia niente di nuovo sotto il sole, se non appunto un ruolo maggiormente accentuato del cosiddetto intermediatore. C'era anche i tempi di Mani Pulite, cioè c'era il sistema delle imprese, il sistema della politica, in mezzo a volte venivano direttamente, a volte ai nostri tempi c'era un intermediario. Mi pare che adesso sempre più ci sia la figura del facilitatore, e cioè colui che da una parte assicura a chi vuole un beneficio dalla pubblica amministrazione le entrature necessarie, e dall'altra parte a quei pubblici funzionari corrotti che non si sporcano le mani direttamente perché c'è qualcuno che ci pensa. La sostanza è questa: tu vuoi quell'appalto, cioè vuoi lavorare, ti rivolgi a me, io ti metto in contatto col funzionario al quale poi passo la mazzetta e mi prendo una percentuale. Questa è la sostanza. La sostanza è questa: c'era, ripeto, ai tempi dell'inchiesta Mani Pulite, noi scoprimo addirittura dei personaggi che avevano dei rapporti fra mafia e politica. Ricordo Angelo Sino, il famoso pentito Angelo Sino, ma non solo lui, poi ce ne furono anche altri che facevano da questa intermediazione. Il problema di fondo è proprio questo: quando uno ha un incarico pubblico, l'incarico pubblico gli consente di avere conoscenze, frequentazione e porte aperte. Quando ha finito l'incarico pubblico, evidentemente ha mantenuto questi rapporti privilegiando appunto le sue conoscenze. Fino a che punto le conoscenze sono reate? Nel momento in cui qualcuno non fa il proprio dovere, ci prende la mazzetta dietro. Mi pare che però sotto questo aspetto niente di nuovo sotto il sole. Ai tempi miei scoprivamo i soldi dentro il puff, ve lo ricordate la storia di Poggiolini? Adesso l'abbiamo scoperta a casa della madre o della suocera, ma insomma, voglio dire, invertendo l'ordine delle suocere la somma non cambia. Sì, ci sembra anche Di Pietro, non tanto in questo caso ma in altri casi, che stia cambiando in parte anche il metodo di corruzione da molte inchieste che vediamo, cioè pagamenti in natura, ti ristrutturo casa, te ne pago una parte. Questo lo dico ad alta voce per contestare quel che stanno dicendo qui a Milano i soliti leghisti, quando dicono non ci sono mazzette nella vicenda dell'arresto del vice segretario, del vicepresidente della regione Lombardia, eccetera. Io, per amore di Dio, non so i fatti nel loro concreto, so una cosa: che l'articolo 319 del codice penale non prevede come controprestazione solo il denaro, ma anche altre utilità. Certo. Nelle altre utilità si è specializzato il sistema, io l'ho chiamato ingegnerizzazione della tangente. Sì. Una volta trovavi i soldi nel cesso, adesso trovi appunto una casa ristrutturata piuttosto che un posto assicurato al nipote, al figlio, a quant'altro. Sì, posto ovviamente, Di Pietro, che stiamo parlando di indagini in corso, nemmeno di rinvia a giudizio, ma solamente di arresti, insomma, quindi questo va sempre precisato. Precisato, anche se Pignatone, voglio dire, possiamo dire una cosa, che la gestione di Pignatone sta trasformando un po' la Procura di Roma. Io ai tempi negli anni 90, 80, 90, tutti quegli anni famosi, la 70, mi ricordo come si chiamava, la Porta delle Nebbie. Sì, sì. Ecco, mi pare che quel porto, se fosse stato aperto già da quegli anni, forse tante cose potevano essere. Ultima domanda: come va la raccolta delle olive quest'anno? Pochi ma buoni. Bene. Grazie Antonio Di Pietro, già ministro delle infrastrutture, con appunto Meduri sottosegretario, con lui abbiamo parlato anche di corruzione. Ci spostiamo veramente di pochi chilometri e andiamo da Raffaella Calandra, che a Paupisi, uno dei comuni più colpiti dall'alluvione del Sannio di qualche giorno fa. Raffaella, buongiorno. Sì, sì, Simone, sono appunto nel cuore del Sannio, nel comune di Paupisi, ai piedi del Monte Taburno, che in questi giorni fa particolare paura. Continua infatti a piovere in questo entroterra campano, che è ancora gonfio dell'acqua delle due alluvioni ed è ricoperto soprattutto in questa parte di distese di sassi caduti giù dalla montagna. Diverse le frazioni qui ancora isolate e le case non sono raggiungibili, alcune neanche a piedi. I mezzi all'opera, per quanto io stessa ho potuto verificare, non sono ancora adeguati per liberare strade diventate tappeti di pietra che hanno coperto ettari di vigneti da cui si produce la famosa falanghina. Qui in tanti hanno perso purtroppo sia la casa che l'unica fonte di guadagno, la terra. 93 le famiglie evacuate in un paese di poco più di 1000 abitanti. Io in questo momento sono al comune col sindaco di Paupisi, Antonio Coletta. Allora, sindaco, esiste un rischio concreto di frane ulteriori dalla... Sì, anche se non sta a me dirlo, ma qui abbiamo avuto un'equipe di tecnici che sostanzialmente dicono che la montagna non è più sicura, nel senso che dopo questo terremoto che è accaduto, questo terremoto di pietre e di sassi che sono scesi giù dalla montagna, il fatto è che ha cambiato anche diciamo, l'assetto stesso della montagna, quindi abbiamo dei seri problemi che potrebbe risuccedere di nuovo. Questa paura unita al fatto che molti qui hanno perso, come dicevo, case e terreni, che cosa significa, sindaco, per un paese che vive soprattutto di produzione di vino? Allora, questo significa che l'economia di questo paese, di questa piccola comunità, non è in ginocchio, bensì è con la faccia distesa al suolo e nel fango. Qui se non arrivano degli aiuti concreti, noi siamo, il Paupisi, oso dire già da altre testate giornalistiche, possono anche depennarlo dalla carta geografica. Non abbiamo modo per poterci risollevare, anche se gente che è abituato al sacrificio, alla lotta, tutto ciò che hanno, tutto ciò, anzi adesso è meglio dire tutto ciò che avevano, se lo sono guadagnato con il sudore della fronte, si sono spaccati la schiena notte e giorno e non chiedono pietà, non chiedono elemosina, chiedono il giusto, quello che gli spetta per poter ripartire, o altrimenti l'economia qui è finita. Simone, come hai sentito dunque la situazione sì. È abbastanza difficile e soprattutto ancora non si riesce a tirare un sospiro di sollievo perché continua a piovere e la montagna è minacciosa. Come abbiamo sentito, sì, è minacciosa. Raffaella, io ti ringrazio per questo collegamento, continueremo a tenere l'attenzione, so che tu starei là anche domani, ci aggiornerai all'interno dei giornali radio, poi ci sarà un reportage, quindi grazie intanto a Raffaella Calandra che comunque sentiremo domani anche in effetto giorno e sentirete in giornata all'interno dei giornali radio. Adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede in borsa e poi subito dopo torneremo a parlare della vicenda della presunta malattia del Papa, ormai smentita, lo faremo di nuovo con Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, perché come sempre a quest'ora, lo abbiamo già detto nei giorni scorsi, c'è la conferenza stampa in mezzo al sinodo ed è inevitabile che qualcosina esca fuori anche su questi temi. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le notizie in primo piano sono le tangenti all'ANAS con l'ondata di arresti, anche in manette anche l'ex sottosegretario alle infrastrutture Meduri, definito un oscuro faccendiere nelle carte dell'inchiesta. Una donna all'ottavo mese di gravidanza è andata in clinica per dolori all'addome ed è stata dimessa, è morta la mattina dopo e con lei il bambino, è successo a Milano. Un uomo armato è entrato in una scuola in Svezia, ha ucciso un professore, 4 studenti feriti di cui 2 gravi, l'aggressore avrebbe 20 anni, sarebbe stato ucciso dalla polizia e avrebbe agito con un'arma da taglio. È stata una nuova mattinata di caos a Roma con metro B e B1 ferme tra le 8 e le 9.30, forse a causa di un'infiltrazione di acqua. Oggi la legge di stabilità dovrebbe arrivare in Parlamento. La borsa. Invesco. Per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Foto Industria Bologna 2015, la biennale dedicata alla fotografia industriale. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci ancora, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, al microfono sempre Simone Spezia e andiamo anche oggi da Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Carlo, di nuovo ben trovato. grazie, buongiorno a voi. E ci colleghiamo sempre con te a quest'ora perché in questi giorni alle 13, lo ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori, più o meno alle 13 inizia la conferenza stampa che riguarda i lavori del sinodo, ma nella quale poi si toccano anche altri argomenti come per esempio la vicenda della presunta malattia del Papa, ampiamente smentita dal Vaticano. Ci sono novità di oggi su questo fronte, Carlo? Dai, io direi a questo punto la possiamo chiamare bufala senza essere diciamo troppo arditi, però perché qui quello insomma si è parlato, poi diciamo in buona fede, ma questo sarebbe. Oggi Padre Lombardi ha ribadito una domanda che la notizia di ieri è stata totale e quindi non ha, anche perché è il Papa direttamente che l'ha fatta, quindi Padre Lombardi ha riferito parola del Papa direttamente, il vescovo di Los Angeles Gomez ha riferito che del tema non si è parlato affatto dentro il sinodo. Devo dire che è credibile questa interpretazione, mentre della lettera dei 13 cospiratori, quella sì invece fu un polizzò il sinodo, questa secondo me forse ne hanno parlato ieri mattina, ma poi è passato, già oggi non esiste ma più molto poco. Tra l'altro, Carlo, sul sinodo insomma ci avviamo a conclusione con grandi partite che già ricordavamo nella prima parte della trasmissione, come il tema dei divorziati e divorziati risposati e il tema degli omosessuali. Esatto, siamo alla stretta finale, infatti io riferivo ora al Cardinale che è uno dei 10 che sta scrivendo la relazione finale, che poi è un po' il cuore del documento dove tutte le richieste, gli emendamenti vengono fatti confluire. Questa vicenda di divorziati e risposati è centrale, si stanno consumando, per la verità ormai gli scontri si sono consumati, nel senso che quello che doveva essere fatto, detto, ora è il momento appunto della stretta finale, si va, sembra, verso una soluzione di non totale chiusura, verso una diciamo soluzione a cui sembra, ma questo lo vedremo sabato sera, a ogni vescovo in giro per il mondo sarà demandata in qualche modo la possibilità di gestire direttamente queste vicende, quindi non si cambia la dottrina ma la prassi potrebbe cambiare, poi dovrà essere trovato il modo come farlo. Grazie a Carlo Marroni, Vaticanista del Sole 24 ore, anche lui ci aggiornerà immagino nei prossimi giorni su tutti questi temi. Andiamo in Medio Oriente con gli aggiornamenti di oggi. Un religioso israeliano è stato accoltellato questa mattina a Beit Shemesh, vicino a Gerusalemme, da due palestinesi all'ingresso di una sinagoga. Uno degli aggressori è stato ucciso dalla polizia, l'altro è in gravi condizioni. Nel tentativo di rilanciare il processo di pace a Berlino, intanto, l'alto rappresentante per la politica estera europea, Federica Mogherini, incontra il primo ministro israeliano Netanyahu, il segretario di Stato americano Kerry, il ministro degli esteri tedesco Steinmeier. È necessario mettere fine all'incitamento e alla violenza in Medio Oriente, ha detto il segretario di Stato Kerry, ma le premesse non sono affatto buone. Il premier israeliano Netanyahu accusa Abu Mazen di spargere menzogne su Israele. Abu Mazen gli risponde attaccandolo per le sue affermazioni sulla Shoah, quella in cui ha attribuito ai palestinesi la responsabilità primigenia dello sterminio degli ebrei, mentre da Sudafrica, dove è intervenuto a un congresso dell'African National Congress, il leader di Hamas, Khaled Meshal, ha detto che l'intifada di Gerusalemme continuerà fino al raggiungimento della libertà per la Palestina. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, poi come sempre Mario Platero, vogliamo tornare alla nostra notizia di apertura, questa ondata di arresti da parte della Procura di Roma per gli appalti all'ANAS per corruzione, perché c'è una frase in particolare che ci ha colpito, una frase pronunciata, o meglio come ha descritto la situazione lo stesso procuratore capo di Roma Pignatone, un racconto nel quale Pignatone descrive una situazione nella quale di fatto l'unico mestiere di una persona è fare da collettore o da gestore delle tangenti, almeno questo secondo le indagini della Procura, che poi andremo a vedere ovviamente se saranno verificate. Comunque sentiamo Pignatone. L'indagine si è rivelata veramente per alcuni aspetti disarmante, sia per la quotidianità dei fatti corruttivi, sia anche per la modalità con le quali la principale indagata, al quale poi prende il nome insomma l'operazione, noi abbiamo solo noi, Dama Nera, proprio perché ha un approccio assolutamente aggressivo, riconosciuta dai suoi stessi diciamo associati come la principale, e che come vedrete successivamente utilizza un linguaggio che fa capire che non è appunto un fatto episodico, che è un sistema assolutamente strutturato, e che si svolgono all'interno della più grande stazione appaltante d'Italia. ANAS è l'ente che ha le maggiori risorse disponibili da spendere in tema di spesa pubblica. Ovviamente quello che abbiamo sentito c'è stato un piccolo problema, un errore mio presumibilmente. Quello che abbiamo sentito non era Pignatone, ma era un uomo della Guardia di Finanza, delle Fiamme Gialle, che hanno materialmente eseguito l'operazione. Il racconto di Pignatone raccontava appunto di questa donna al centro dell'indagine, che di fatto di mestiere, almeno secondo la Procura di Roma, svolgeva esattamente quello, cioè arrivava in ufficio e l'unica cosa della quale si occupava dall'inizio dell'orario d'ufficio alla fine dell'orario d'ufficio era esattamente la collezione delle tangenti. Ci fermiamo, c'è il traffico, Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.